di una parte della comunità ebraica ha chiesto praticamente di non fare quel convegno in un luogo che è appunto dentro il ghetto. Non hanno motivato altrimenti, questa è stata la prima motivazione, e loro hanno tutto il diritto di chiedere quello che vogliono chiedere, così come noi chiediamo al governo italiano, per esempio, di non lasciare sempre impunita Israele dei propri crimini. La cosa grave è che l'università ha accettato questa richiesta, ma avrebbe potuto accettarla dicendo d'accordo, spostiamo il luogo perché potrebbe creare tensioni, ma avrebbe dovuto dare un'altra aula e comunque mantenere l'evento. È gravissimo che invece l'università, un luogo di pensiero, un luogo in cui soprattutto l'università della Sapienza abbia deciso di cancellare il loro logo dalla locandina. I professori che avevano aderito hanno mantenuto la loro adesione, quindi il convegno si farà, non si farà in un luogo come quello dell'università, e questo è molto grave, ed è grave soprattutto per chi ha deciso di non aderire a questa iniziativa. Per noi la cosa importante è fare l'iniziativa, e questa la facciamo, fare l'iniziativa perché è importante discutere sia degli identitarismi, così come prevedeva il convegno iniziale, ma discutere anche di che cosa è Israele oggi, sicuramente Ilan Pappe ha una posizione molto chiara e netta rispetto a che cosa Israele sta conducendo, quale politica colonialista conduca nei confronti del popolo palestinese. Per cui è un convegno che si farà, si terrà, noi andremo avanti perché giustizia, verità vogliono che si parli e che non si accettino ricatti di antisemitismo, di odio contro Israele. Non si tratta di questo, chi commette ogni gesto, ogni pensiero antisemita va aspramente combattuto, ma qui si tratta invece di una politica coloniale di oppressione, di occupazione militare di uno Stato verso un popolo come quello palestinese. Mi auguro solo che nascano altri incontri di questo tipo e soprattutto che si conduca una campagna forte perché finalmente la Palestina e i palestinesi possono vivere in libertà. Senti Luisa, che cosa si intende appunto quando parlano di obiettivi sensibili come l'università? Come? Che cosa intendono quando parlano insomma di obiettivi sensibili, che il convegno insomma non poteva essere fatto all'Università Roma 3? Non c'è nessuna, io non lo so, non ho seguito, per non lo so cioè cosa intendano loro. Quello che è chiaro è che loro pensavano che una presenza come quella di Ilan Pappe possa essere di documento, non so, e che possa infervorare gli animi, visto che il luogo che si teneva era all'interno del ghetto. Ma la cosa gravissima è che, e lo ripeto, gravissima, perché vuol dire una mancanza di libertà, vuol dire una mancanza di democrazia, è che il rettore dell'università decida di sospendere e di togliere il logo a questa iniziativa. Credo che non possa passare inosservata, perché qui è in gioco non soltanto il problema Israele-Palestina, qui è in gioco anche la nostra democrazia, la nostra libertà di opinione e di espressione, soprattutto di questi tempi quando si parla tanto del diritto di libertà e di espressione, poi noi violiamo per primi questo principio, appunto impedendo o sottraendo un logo dell'università, un'iniziativa come questa che voleva affrontare in modo anche certo scientifico, sono professori universitari che trattano del tema e che sono esperti sulla questione, però ripeto, nessuna intimidazione può fermare il bisogno di giustizia, di libertà, di verità che c'è per il popolo palestinese. Certo, chiaro. Quindi è stato spostato a via De Frantani, qui a San Lorenzo, il convegno, e si farà uguale. È spostato il luogo, quindi si terrà in via dei Frantani, ribadisco, i professori che avevano aderito sono tutti presenti, Lampap è presente, io sono presente, Monio Vadi è presente, quindi non mancherà nessuno. Mi auguro che ci sarà molta gente. E di questo fatto vogliamo fare un fatto serio politico e non soltanto una protesta sterile. Va bene, noi ti ringraziamo e ribadiamo l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori di questo pomeriggio di partecipare quindi all'iniziativa che sarà a Via De Frantani 4 al centro congressi qui a San Lorenzo a partire dalle ore 14. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao. Never knew botanist, never knew in a kid.